allora alle 10:52 sulle note di Silvio Rodriguez ritorniamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è Radio Euskadi come ogni lunedì, ma questo lunedì è un po' più speciale degli altri. Abbiamo ascoltato le varie corrispondenze che sono state registrate nella giornata di sabato per raccontare un po' tutto quello che è successo all'Under dalla prima mattina, quindi dal suo essere stato prelevato e poi portato in questura fino alla deportazione che c'è stata sabato notte. L'Under attualmente si trova a Madrid ed è cominciato l'iter consueto, purtroppo, che è interessato e interessa centinaia e centinaia di compagni e compagne nel Paese Basco. L'Audiencia Nacional, questo famigerato tribunale di diretta derivazione franchista, sta istruendo il processo, per cui insomma i tempi saranno, insomma, non possiamo dire adesso con certezza quanto lunghi. Nel frattempo lui è rinchiuso in quel di Madrid e nel frattempo però non può cessare, come abbiamo detto tante volte, la mobilitazione in suo favore. Noi siamo in compagnia di Irati, che ci è venuta a trovare qui stamattina e che intanto ovviamente ringraziamo moltissimo per la presenza sia oggi sia in tutti questi mesi passati, e niente, anzitutto per, diciamo, tranquillizzare un po' tutte quelle e tutti quelli che hanno seguito la vicenda. Attualmente com'è la situazione? L'Under si trova in carcere a Madrid? Sì. Sì, ieri ho parlato con il nostro avvocato a Bilbao, mi diceva che ieri era in galera a Madrid, sotto del Real, e oggi lo portavano all'Audiencia Nacional per fare la convalida dell'arresto, quindi riusciva oggi a beccarlo. Mi sa che era alle 10:30, quello è una cosa molto veloce, quindi secondo me adesso starà con l'avvocato. Quindi se arrivano notizie immediate col cellulare. andiamo subito in diretta. Senti, quindi diciamo nessuno l'ha visto, l'ha incontrato da sabato notte, no, fino a adesso. No, ancora no. Va bene, quindi per avere notizie dobbiamo aspettare il pomeriggio. E senti, che cosa succederà adesso, diciamo, come funziona il giudizio spagnolo in questi casi? Adesso stiamo ancora aspettando la data del giudizio, quindi lo Stato spagnolo ha come norma il diritto di avere un prigioniero politico, un prigioniero fino a 4 anni in preventivo o fino a i primi 2/3 di quello che ti chiede il PM, no? I 2/3 della pena. Sì. Quindi noi speriamo che sia lo più presto possibile, però non abbiamo modo di dire un mese, 2 mesi, un anno, non si sa. Ho capito, e questo diciamo neanche quindi a partire dai prossimi giorni, bisognerà aspettare. Può essere che all'avvocato le arriva la notifica con la data del giudizio, però senza nessuna certezza. Certo, senti, e diciamo in questi casi per quanto riguarda quello che succede, sì, per noi è stata molto speciale come storia, no? Perché ce l'avevamo qui insieme a noi in casa, per cui anche insomma c'è stata anche una mobilitazione forte, però sì, purtroppo l'abbiamo detto tante volte, nel Paese Basco è una storia comunissima. In queste vicende, quando si arriva a questo punto, cioè quando il detenuto viene portato all'Audiencia Nacional, poi la solidarietà come si sviluppa, in che maniera si porta avanti, che cosa si può fare, ecco. Io so che oggi lunedì c'è un presidio a Santuccio, al quartiere nostro, perché no, è sempre già arrivata la parte dove entra la Spagna in gioco, quindi Euskal Herria sarà. E tocca a Euskal Herria di lavorare, secondo me, in questo campo, no? Da Roma in realtà non lo so ancora, non ho avuto tempo di riflettere, certo, fare una valutazione di quello che si può fare, perché la mamma e il fratello sono partiti ieri pomeriggio, quindi sono stata insieme a loro, non ho ancora fatto, non ho pensato tanto in cosa si può fare da qua. Però secondo me si può, quello che mi viene in mente adesso è tutto il lavoro che si è fatto fino adesso con la campagna Un Caso Basco a Roma, che tra l'altro si è allargato a tanti spazi, tanti compagni e compagne di Roma. È stato una cosa secondo noi e per noi molto, molto importante e gradevole, no? E quindi quando noi parlavamo dell'under era pure un pretesto di parlare di scaleria, di fare denuncia di quello che sta succedendo pure ad oggi a scaleria, e quindi vedo che può essere una buona idea, no? Seguire, di denunciare o essere attenti in quello che succede là, sapendo pure che è molto più difficile, molto più facile sicuramente fare questo lavoro e lottare avendo una persona qui in quella situazione che era l'under, no? Però secondo me si c'è voglia e la forza c'è, si può ancora fare. Sì, no, ti dicevo questo intanto perché poi alla fine è vero che era un caso basco a Roma, però poi per fortuna c'è stata una mobilitazione, una risposta anche da tante altre parti in giro per l'Italia, per cui insomma è stata una battaglia che è stata fatta proprio da tanti e tante. E poi quello che notavo nelle ultime 48 ore che tutti dicevano non ci fermiamo qui, insomma non si, sì, può fermare, sì, qui questo movimento, non si può fermare qui questa solidarietà, per cui appunto adesso il problema sarà continuare, però è un modo abbastanza nuovo per noi, no? Certo. Nel senso che è una solidarietà che nel paese basco avanti da 40 anni, qui ci siamo trovati per la prima volta con un compagno basco alle prese con l'estradizione, e probabilmente ha insegnato anche a molte e molti che cosa significano tutte quelle cose di cui si parla spesso così come una cosa lontana, astratta, perché quando hai sotto mano chi ci capita, sì, sul serio un'altra cosa. Però ecco, immagino che il coordinamento, la campagna andrà avanti, poi sì, in che, sì, modo e misura ce lo vedremo in seguito. Certo, dovremo pensare altre le nuove modalità di portare avanti questa lotta, perché secondo me questo ultimo mese, queste ultime settimane, pure Roma è riuscito a lanciare un messaggio molto molto forte, e noi stavamo dentro di quella dinamica, no? Eppure Roma in sé era dentro di quella dinamica, e quindi forse non siamo ancora riusciti a capire cosa si è fatto, cosa abbiamo fatto. Noi da Euskal Herria ci arrivano tanti messaggi dicendo, ringraziando di cuore, dicendo alzando tutto questo lavoro che abbiamo fatto, e veramente Euskal Herria è commossa di lavoro della città di Roma. Sì, lunedì scorso abbiamo fatto una corrispondenza in diretta proprio col vostro quartiere, Nicola, esatto. Sì, sì, diciamo a 24 ore dalla manifestazione che ci sarebbe stata lì proprio per l'anno, insomma una cosa abbastanza toccante. E poi però c'è anche da dire che diciamo questa mobilitazione romana è andata a lavorare fianco a fianco con quanto sta succedendo nel Paese Basco, che non è da poco. Penso a meno di 10 giorni fa, quando a Donostia, sì, un gruppo di giovani, giovanissimi compagni, è stato prelevato dalla polizia basca, dall'Ersanza, e a proteggerli c'erano migliaia di persone, ecco, per cui è un movimento comunque che è in levare, che è in una prospettiva di ingrandimento, sì, per fortuna, sì, sì, no? È così, e infatti dopo di quello che è successo a Donosti quando parlavamo al comitato, sia fuori del comitato con i compagni che avevano letto quello che era successo a Donosti, tutti dicevamo no, noi facciamo lo stesso, noi dobbiamo fare, non lo famo portare, facciamo quello che hanno fatto lì, dobbiamo fare lì in basco si chiama RRSA, e quindi si voleva pure usare questa parola molto difficile per i romani. RRSA vuol dire muro popolare, muro, sì, di persone che si oppongono al prelevamento. E poi oltretutto anche nello Stato spagnolo ci sono stati momenti di solidarietà proprio con questa vicenda di Donosti, sono state manifestazioni a Madrid, addirittura in Andalusia, tutte caricate ovviamente. Sì, arresti però, a Madrid, i compagni di Madrid sono stati un po' massacrati. Però che ci siano state, insomma, è comunque un dato molto positivo, ecco. Certo. Va bene, e io non lo so, credo ci... Intanto se vuoi aggiungervi qualcosa da dire in più, poi come al solito hai tutto il tempo che vuoi. Per dare una risposta anche a chi magari ci sta ascoltando e vorrebbe fare qualcosa, ecco, diciamo ci aggiorniamo alle prime notizie che arriveranno da Madrid, o sono in previsione comunque altre manifestazioni, insomma c'è... un minimo di idea sul da farsi già? Ancora non abbiamo nessuna data precisa, solo quello, aspettiamo nuovi aggiornamenti e nuove date di incontro e mobilizzazione. L'unica cosa che abbiamo così fissata è l'8 giugno un concerto di Fermín Muguruza per un caso Pasqua a Roma, quello. Sì, sarà una giornata molto completa con dibattiti, discussioni, e quello è l'ultimo tour di Fermín Muguruza. Viene in Italia, l'unico concerto che fa lo fa a Roma e lo fa insomma per l'Under. Per l'Under. E comunque diciamo quello è l'8 giugno, poi prima immaginiamo ci sarà ancora molto da fare. Va bene, e io non credo che l'Under possa avere accesso a internet, no, suppongo, quindi no, non ci può sentire, però insomma in qualche modo è come se ci sentisse a noi che siamo qui e poi a tutti quelli che in spirito stanno in questo momento ai nostri microfoni. E niente, noi intanto chiudiamo per ora questa parentesi con un abbraccio fortissimo intanto a te, a lui, a tutte quelle e tutti quelli che hanno fatto la spola in questi mesi fra Roma e il Paese Basco, non per turismo purtroppo come si fa di solito, insomma ci sarà tempo anche per quello, e credo che ci riaggiorniamo ai prossimi giorni, perché comunque ecco la vicenda non è finita con Sabato, e soprattutto non è finita con l'Under. La richiesta di libertà per l'Under, la richiesta di libertà per centinaia di persone, e la lotta non finisce assolutamente Sabato, ecco, questa è una cosa che penso ci teniamo a dire tutte e tutti, e non siamo soli per fortuna. Quindi niente, un pochino di musica e poi ritorniamo subito dopo. E allora le 11:12 minuti primi, ritorniamo in voce, sempre all'ascolto di Radio Euskadi, sempre in compagnia di Irati per parlare ancora di Lander e della sua vicenda. Insomma, abbiamo parlato un po' in generale, poi purtroppo in questi casi ci sono anche tutta una serie di questioni pratiche, anche se è brutto chiamarle così, però insomma dove andrà a finire, in che tipo di carcere, in che maniera magari riuscire ad avere ancora contatti con lui. Cioè, insomma, una lunga tradizione nel Paese Basco, però qui siamo ancora un po' fuori da quest'idea, per cui sai che sono arrivate e continuano ad arrivare tante richieste di informazioni, notizie, persone che compagni e compagne vogliono corrispondere con lui, per cui ecco che... come ci dobbiamo organizzare? Un po' c'è ancora un po' tutta l'incertezza, perché non è una normativa, non c'è una normativa scritta di quello che può succedere di qui ai prossimi giorni, ma quello che succede al solito è, lui sta adesso sotto del Real, che è di, al solito quel primo, la prima carcere dove ti portano dopo che ti arrestano, in questo caso quando ti stradano. Poi oggi è andato all'audienza nazionale e poi sicuramente ritornerà sotto del Real, però nei prossimi giorni sicuramente può essere spostato a un altro carcere dove può rimanere lì, o può essere sempre spostato nelle prossime settimane, mesi, non si sa bene. Perché su questo, diciamo, non c'è sicurezza, non c'è neanche una normativa ufficiale in merito a... L'unica cosa che sappiamo da sicuro è che non lo porteranno a nessuna carcere di Euskal Herria, e purtroppo toccherà farsi i viaggi per andare a trovarlo. E infatti quello dicevamo pure con i compagni ieri, che quasi quasi il carcere più vicino che possiamo quasi immaginarsi sono quelli di Madrid. A Madrid sono ci stanno un sacco di carceri. Da Bilbao ci mettiamo più o meno tre ore e mezza, quattro di andata, quattro di ritorno, e quello è quasi quasi lo minimo che può fare i familiari di prigionieri politici per andare a trovare il suo familiare. Perché c'è il pericolo pure che vada parecchio più lontano, addirittura in un'isola. Sì, un'isola ad oggi è abbastanza difficile, non li portano più là, però comunque se lo portano in Galizia, Andalusia oppure in Catalogna, sono sempre molto più chilometri per al solito fare una visita di 40 minuti, perché quello lo sappiamo di sicuro, le visite sono, ci avrà una, due visite a settimane da 40 minuti, sempre con il vetro in mezzo. Senti, per chi in qualche modo, cioè, sappiamo che funzionava così, almeno che ci sono tante persone che poi iscrivono ai detenuti, certo, alle detenute nel Paese Basco, ecco, sì. Questo è ancora possibile? Sì, infatti io tanti mi hanno chiesto di un indirizzo, qualsiasi cosa, per fargli arrivare delle lettere, però insomma sto aspettando la chiamata dell'avvocato di su, perché forse sa qualcosa di spostamenti. Adesso l'unica cosa che si può fare è mandare una lettera sotto di Real, però può essere che in questa prima settimana si sa dove lo portano, quindi io sono da aspettare un po' questa settimana, capire dove lo portano e mettere l'indirizzo ovunque per tutte quelle che vogliono scriverlo. Senti, e ovviamente soltanto lettere, perché immagino che libri, pacchi, cose di questo tipo non... No, quello è molto... quello dipende dal carcere, però al solito la famiglia può mettere un pacco ogni mese, ogni due settimane, una cosa così. Dipende poi che cosa le puoi mettere, perché tutto non si può... Ah certo, ci sono tante restrizioni. Una rigida organizzazione, ecco, noi possiamo solo scrivergli, ecco. Ci sta ascoltando, no, non si può andare oltre, già il libro va oltre. Sì. Va bene, e insomma questo per, diciamo, le cose pratiche. Non so se ci sono anche altre informazioni da dare, questo lo puoi valutare tu. E altrimenti magari appunto restiamo per aggiornarci, sì, sicuramente lunedì prossimo, altrimenti nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda questa storia del carcere, visto che insomma tutti quelli e tutte quelle che l'hanno conosciuto so per certo che stanno lì ovviamente con l'intenzione almeno di fargli avere una lettera, ecco, aspettiamo qualche giorno prima di capire dove sarà andata a finire. Sì. Va bene, e allora niente, grazie mille ancora per la tua presenza qui. Poi appunto dicevi l'8 giugno ci sarà questo concerto, ma insomma siamo al 29 aprile, per cui da qui all'8 giugno ci sarà ancora parecchio da fare e da organizzare. E quindi appena avremo diciamo novità, aggiornamenti li daremo, anche per quanto riguarda questa storia degli indirizzi. Sicuramente entro lunedì prossimo noi ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale e poi vediamo se tornare dopo in diretta.